pietà mi desta il suo cordoglio. Che un ti cera fendone? Sei forte in mano. Ma la guerriera l'orgoglio abbassa il brando. Se di licer non ubbidisce Orlando. Orlando? Si lusinghi e si acquisti il temuto guerrier contro l'insane turbe di Longistello. O rinomato valoroso campione, o invitto e grande sopra di quanti mai corresse rasta, o mai ruotasse spada, permetti alla bromio che ritenente sull'invitta tua destra bacio d'ossequio umilmente in prima. O gran diva, che tale creder ti deggio, il mio pensier non era, poiché si rara e tanta beltà non vanto mai donno mortale, a me tocca offrir maciumi sulla bianca tua man e invuoto il cuore. Ah, si accende sia lei. Ait amore, scusa l'errore, le ignote insegne in colpa. Ravizzosa tua vegnarina, me lo prare tu non devi, tal potessimo, ma lo potrò, d'angelica mio bene, anche a costo del sangue, anche a rischio di vita, vagheggiar la beltà, servir la brama, che il sangue spargerei, la vita lascerei. E la mia regni aggiunsi un nuovo sole col suo bel volto, tu nuova gloria aggiungi, in restarmi qua regni miei. Arbitra mai nel mio cuore tu sei, fibra per me possente dio d'amore, contro l'altero cor tua face e il dardo. Ingrata non mi dà neppure un guardo.